non vivo in città, tra mille palazzi, sono tra la sabbia di chi la tocca per distrarsi. Il sole picchia forte su case di pietra, dove la stabilità è una bambola di creta, beato chi lo otterrà. In provincia niente è facile, dove è troppo bello sognare, ma un sogno è fragile. Dove l'italiano è un optionale, chi lo parla giudica dal cellulare alla macchina. Io vivo dove la pazienza ha un limite, sempre più vicino al minimo possibile. Dove chi lotta da solo lotta con gli animali, se non sono tra di loro è perché non ho credenziali. Sincero con me, lo sono sempre stato. Io lo so che è facile scrivere per chi c'ha il culo parato. Siamo soldati di un cielo che ci governa, ognuno la sua spada e la mia è questa penna. Mi guardo attorno e vedo vite indistinte e anime che aspettano la fuga dalla mimica che ci distingue. Almeno si stabilizzano. Io vivo dove il calore e l'umidità riempiono di amenità le teste di chi non ha. Parliamo chiaro, niente a cui pensare, perché bene o male gli pagano la consumazione nel locale. E non parlo di papà per forza, ma di chi proprio non sa cosa cerca per il suo futuro e camuffa un italiano spiccato con chi lo prende per il culo. Dove vivo questa cosa mi diverte, cani si inventano lupi per cani a gambe aperte. E mi dispiace che chi c'ha una marcia in più è costretto a chiudere per un posto all'Alfa Sud. Sincero con me, lo sono sempre stato. Io fra mi impegno a scrivere perché c'ho il culo parato. Sono un soldato di un cielo che mi governa, ognuno la sua arma, la mia è questa penna. Mi guardo attorno e vedo vite indistinte e anime che aspettano la fuga dalla mimica che ci distingue. Almeno si stabilizzano.